Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Lo studiare all'estero è una cosa che giova, ma non è mica un mistero che faccia bene. L'idea mia era che questa dovesse diventare un'opportunità aperta a tutti, a chiunque vuole, perché non è mica obbligatorio andare in Erasmus. Chi vuole ci va. Si diverte, diventa più maturo, diventa più adulto, diventa migliore. Alla fine trova lavoro in metà tempo che chi non è andato in Erasmus. Io credevo fosse una cosa facile, no, una cosa ovvia. Invece ho dovuto battagliare per 18 anni. Io la battaglia mia l'ho cominciata nel 69, poi nell'87 è finalmente arrivato l'Erasmus ufficiale dell'Unione Europea. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La straordinaria testimonianza di Sofia Corradi, soprannominata Mamma Erasmus e per questo premiata nel giorno della festa dell'Europa dal re di Spagna Felipe e dal presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, apre la nostra puntata speciale da Strasburgo. L'intervista è stata realizzata da Maria Piera Ceci e anche grazie a Sofia Corradi, se oggi esiste un programma in grado di rendere i nostri giovani aperti, internazionali, in una parola, europei. Anche quest'anno Giovani Talenti va in onda dagli studi dell'Europarlamento in Alsazia. Con oggi si chiude anche l'iniziativa Giovani Talenti in Europa 2016 che ci ha tenuto compagnia per 2 mesi. In queste settimane avete inondato di proposte la nostra casella email e proprio in questi giorni abbiamo scelto insieme ai rappresentanti dell'ufficio del Parlamento Europeo di Milano, nostro partner nell'iniziativa, le migliori. 4 di voi potranno dunque visitare il prossimo autunno questo edificio nel cuore dell'Alsazia e vivere un'esperienza a diretto contatto con gli eurodeputati riuniti in sessione plenaria, recapitando loro le vostre proposte per un'Europa più giovane. Piccole riflessioni ora, prima di iniziare. L'Italia ha una struttura generazionale fortemente squilibrata. I 15-34 anni rappresentano il 21% della popolazione e secondo le più recenti previsioni demografiche nel 2050 il loro peso scenderà al 20%. Le persone over 65 nel 2015 sono anch'esse il 21%, ma al contrario il loro numero è destinato a crescere. L'indice di vecchiaia italiano salirà nei prossimi anni. L'età media della popolazione sfiorerà i 50 anni nel 2065. Sul fronte dell'istruzione invece, per gli stati 30-34 anni italiani che hanno conseguito un titolo universitario rappresentano solo il 23,9%, 2/3 della media europea. Conferma Eurostat, l'Italia ancora una volta si conferma ultima nel continente per numero di laureati, al di sotto del target comunitario 2020. E le donne, attenzione, fanno molto meglio degli uomini. Ancora fonte Eurostat, il 57,5% dei nostri laureati risulta occupato tra 1 e 3 anni dal termine degli studi, ma se si considera l'intero triennio la percentuale italiana scende di 4 punti. Siamo penultimi in Europa davanti solo alla Grecia, 26 punti sotto la media comunitaria, 40 punti di distanza dalla Germania. Se si considerano tutti coloro che hanno esaurito il percorso di studi e formazione e cercano lavoro, Eurostat rileva che in Italia solo il 41% dei giovani risulta occupato entro 3 anni dalla fine degli studi a fronte del 70%. Sempre da Eurostat, 3 regioni italiane, la Calabria col 65%, Sardegna e Sicilia col 56%, figurano tra i 10 territori comunitari col tasso di disoccupazione giovanile più elevato nel 2015. La Calabria si colloca al 3° posto in classifica, ma è preceduta solo dalle piccolissime enclave spagnole in terra africana, Ceuta e Melilla. Abbandoniamo ora i preamboli statistici e andiamo subito a conoscere le storie dei 3 giovani talenti protagonisti della puntata odierna. Sono tutti under 40 e hanno tutti scelto l'Europa quale punto di approdo della loro carriera lavorativa. Sono Anita Quatrini, ho 33 anni, sono originaria di Viterbo. Ho lasciato l'Italia diverse volte, di quell'ultima nel 2013, per venire qui a Strasburgo a lavorare come assistente in una commissione di un'assemblea del Consiglio d'Europa, vale a dire il Congresso dei Poteri Locali e Regionali. Ciao, sono Pietro, ho 37 anni, sono italiano chiaramente. La mia prima esperienza all'estero è stata per un Erasmus a Pamplona nel 2003 e dal 2005 vivo a Bruxelles, in mezzo sono stato un anno in Inghilterra. Sono Lorenzo Repetti, ho 29 anni e mi sono trasferito a Bruxelles nel 2010 per fare l'assistente parlamentare e sono ancora assistente parlamentare. E

verrà a Strasburgo a ottobre, i quattro che parteciperanno a questo viaggio studio. Però la domanda che ti pongo anche quest'anno è: come ti sono sembrate le proposte che ci hanno inviato? Beh, abbiamo ricevuto alcune decine di risposte, direi tutte interessate, alcune più concrete, altre più giustamente quasi devo dire fantasiose, ma i temi erano esattamente quelli che avete discusso durante la trasmissione sinora, cioè il collegamento scuola-lavoro, le opportunità di studio all'estero. In definitiva anche emerge questa buona disponibilità alla mobilità, che è una parola chiave credo della discussione che stiamo facendo oggi, e sono temi che campeggiano, sono tra i temi principali di uno studio che proprio ieri Eurobarometro ha reso noto in merito allo European Youth Event o AI 2016 che si terrà qui a Strasburgo la prossima settimana tra venerdì e sabato. In sintesi, perché il tempo è veramente poco, però ci sono dati che ti hanno colpito, Bruno? Sì, alcuni sì. Per esempio i giovani italiani hanno un senso di esclusione rispetto alla crisi attuale, sì, il 78%, che è molto più della media europea che si ferma al 57%. E poi c'è la mobilità. Poi c'è la mobilità, dove invece emerge, ma è una conseguenza di quello che stiamo dicendo, la disponibilità del 26% dei giovani italiani a muoversi per lo studio e per il lavoro, rispetto a una media europea del 15%. Quindi poi c'è un dato interessante che avete anche voi discusso e che situerei in una situazione da bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché il 53% dei giovani italiani pensa che l'università sia abbastanza adattata alla prospettiva di inserimento nel mercato del lavoro, tutto sommato una media abbastanza alta, quella europea però ancora più alta, il 59%, quindi rimane una criticità in qualche modo. Infine, una notizia, diciamo più che una statistica, cioè è un dato statistico ma che costituisce una notizia, la garanzia giovane, di cui si è parlato molto nel corso dell'ultimo anno in Italia, che è un provvedimento, ricordiamolo, voluto dal Parlamento europeo e finanziato anche abbastanza consistentemente nonostante la crisi economica, in Italia è conosciuta dal 50% rispetto a una media europea del 24%. Diciamo che, avendone anche bisogno, ne stiamo facendo buon uso, come ci dicono anche i dati attuali. E ci raggiunge ora il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Posto che la mobilità dei talenti e dei professionisti è uno dei grandi successi dell'Europa, nonostante le minacce che incombono anche attualmente su Schengen, non è il caso di osservare come al momento ne stiano beneficiando soprattutto alcuni paesi come Gran Bretagna, Germania o Francia a discapito di altri, accaparrandosi spesso i migliori cervelli? L'Italia, insomma, non rischia di perdere la partita dei talenti, che è la vera competizione in questo secolo? Ma io non la metterei come una gara a ostacoli. Naturalmente tutti i paesi hanno bisogno di investire sui propri giovani, fare in modo che i propri giovani costituiscano anche pezzi di classe dirigente del paese a tutti i livelli, in tutti i settori. Noi dobbiamo ragionare come Europa, abbiamo la necessità di integrare sempre di più le esperienze dei giovani, di fare in modo che le università siano sempre più integrate e abbiano standard comuni. Abbiamo bisogno di fare in modo che i centri di ricerca siano accoglienti e specializzati, che non siano delle repliche che in ogni paese si cerchi di imitare gli altri. No, noi abbiamo bisogno di una rete di centri di ricerca davvero europea. Ecco, io credo che l'Europa abbia nel suo DNA tutto questo. Se vogliamo continuare a investire sull'Europa, naturalmente l'orizzonte è quello di investire sui giovani. Al di là dei risultati che ha avuto, l'Italia è uno di quelli che l'ha più utilizzata, Garanzia Giovani, un progetto europeo. Ha un futuro questo progetto? Perché non è ben chiaro se sarà rinnovato, se non sarà rinnovato. Ma adesso vedremo. Per noi dovrà essere rifinanziato e dovrà essere anche un pezzo di quello che dicevamo prima, di questo grande investimento dell'Europa sui giovani. Naturalmente siamo in un momento di grande incertezza, sia per quanto riguarda le politiche europee, sia per quanto riguarda la tenuta della costruzione europea. E credo che i prossimi mesi siano mesi in cui tutti coloro che hanno a cuore l'Europa dovranno cercare di impegnarsi, di investire, di fare in modo che questa grande dimensione in cui la nostra vita può avere relazioni, opportunità nuove, come ad esempio quella per i giovani, naturalmente dovranno essere in prima linea.